Quante belle figlie, Madame Adoreu, quante belle figlie. Se son belle me le tengo, scudieri del re, se son belle me le tengo. Il re ne domanda una, Madame Adoreu, il re ne domanda una. Che cosa ne vuol fare, scudieri del re, che cosa ne vuol fare? La mariterebbe con uno spazzacamino, Madame Adoreu, con uno spazzacamino. E come la vestirebbe, scudieri del re, come la vestirebbe? Di stracci e toppe, Madame Adoreu, di stracci e toppe. Uscite dal mio castello, scudieri del re, uscite dal mio castello. Le mie figlie me le tengo, scudieri del re, le mie figlie me le tengo. Se son belle me le tengo. Il re ne domanda una, Madame Adoreu, il re ne domanda una. Che cosa ne vuol fare, scudieri del re, che cosa ne vuol fare? La vuole maritare, Madame Adoreu, la vuole maritare. Con chi la mariterebbe, scudieri del re, con chi la mariterebbe? Nel